Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e dieci minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, torneremo sul punto toccato ieri da Mario Draghi, oggi moltissimi commenti e analisi. Devo dire che per quello che riguarda i mercati sono più calmi, Milano è invariata, Parigi meno 0,30%, Francoforte più 0,60%, Londra più 0,50%. Non c'è un gran recupero delle banche italiane, Banco BPM perde ancora il 4,80%, BPER Banca al 3,30%, Intesa San Paolo perde l'1,60%, UBI l'1,40%, Unicredit ferma sostanzialmente e poi si muove qualcosa su titoli e minori. Va bene invece Risparmio Gestito con Azimut più 3% e Mediolanum più 2,5%, in recupero Moncler che era calata più 2,60, Recordati più 2, Finecobank più 1,90, STMicroelectronics più 1,80, CNH più 1,40 per cento. Di cosa parleremo oggi come cronaca? Parleremo da un lato della situazione dell'export italiano in Russia. Perché? Perché si sta svolgendo, mentre oggi Angela Merkel, e questo è lo spunto anche di cronaca, ha detto è giusto mantenere le sanzioni nei confronti della Russia, non vanno tolte, gli accordi di Minsk non sono ancora stati attuati e le sanzioni della Russia non possono essere tolte, sostenendo che la situazione in Ucraina preoccupa, e ha detto anche tra l'altro che non cambia la posizione dell'Unione Europea sulle sanzioni della Russia nonostante le dichiarazioni di Donald Trump. Sappiamo che infatti il 2 febbraio c'è stata la prima sanzione sostanzialmente contro la Russia a cadere dopo la telefonata tra Trump e Putin, è stato riautorizzato il flusso di affari limitato con i servizi di sicurezza federale della Russia, insomma l'ex KGB. Però detto questo, si punta molto al vertice di Taormina, quello del 26-27 maggio, il vertice del G7. Potrebbe tornare a essere un G8 se arrivasse l'invito a Putin. Sarà presente Trump, e devo dire che noi ne parleremo dal punto di vista economico, perché si sta tenendo proprio in questi giorni, da ieri, Prodexpo, che è la più grande fiera internazionale per il mercato russo e per l'Est Europa di prodotti alimentari, bevande, materie prime. Si conclude il 10 febbraio, 2.000 espositori, 54.000 operatori del settore. È chiaro che sarà anche il punto per capire quanto male stanno e continuano a farci le sanzioni nel settore agroalimentare, alla luce di quelle che però molti si aspettano essere possibili aperture che potrebbero essere ufficializzate appunto al vertice del G7/G8 di Taormina. Parleremo invece anche della Grecia. Dice, perché la Grecia? Beh, perché la Grecia, secondo quanto sta dichiarando soprattutto il Fondo Monetario Internazionale, che non è nemmeno unito al suo interno, nel senso che il board, quindi il comitato del Fondo Monetario Internazionale, è diviso sui termini del salvataggio della Grecia, perché alcuni continuano a sostenere che il debito greco resti insostenibile, si debba in sostanza andare a un'altra forma di trattativa con la Grecia. Al di là della Grecia c'è anche l'accusa di Schäuble contro la Grecia e il botta e risposta in Germania da parte di Sigmar Gabriel, quindi il suo ruolo di ministro dell'economia contro Schäuble. Però insomma il tema è la rinegoziazione per il debito greco, torna al palo. E torna al palo soprattutto perché, secondo buona parte del Fondo Monetario Internazionale, il debito non è sostenibile. Infine parleremo anche di un caso di casa nostra che tiene banco nel mondo calcistico, se ne è occupato molto anche il programma Tutti Convocati di Radio 24, però ha un aspetto economico, mi riferisco allo stadio, al progetto dello stadio per la Roma Calcio. Al di là del caso in sé di cronaca, cercheremo di capire perché la tendenza a portare, soprattutto per i grandi club, ad avere lo stadio di proprietà sia una tendenza che coniata e soprattutto anche adottata dalla Gran Bretagna, venga vista come un elemento importante per la sostenibilità dei club stessi. Questo al di là delle varie dichiarazioni, penso all'assessore urbanistica Berdini, che dice: attenzione, facciamo lo stadio, lo voglio fare, non diciamo bugie, però lo voglio fare, diciamo, con una logica di senso, e critica, diciamo, Parnasi. Insomma, cerchiamo di capire il tema economico al di là del tema ludico, diciamo, e dell'idea che l'Italia abbia un'età degli stadi assolutamente vecchia. La media di un impianto italiano è di circa 62 anni e molti sono troppo vecchi per essere ristrutturati. È un piccolo approfondimento, ma c'è un elemento molto economico anche in questa polemica, al di là di chi la vuole buttare sempre solo a livello politico. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. E poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Rapidamente le altre notizie in breve. Partiamo da quelle di carattere internazionale, perché è attesa per stasera la Corte Federale di San Francisco ha convocato per oggi un'udienza sulla questione del bando Trump all'ingresso dei musulmani negli Stati Uniti. La cosa interessante è che hanno fatto ricorso 18 stati, ma anche 97 aziende dell'high tech che si sono schierate contro il bando. Di misure proibizioniste scioccanti parla oggi il presidente di Intesa San Paolo, Gianmaria Grospietro, sulle misure annunciate dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Ha detto poi Grospietro: bisogna ora vedere la loro attuazione. Poi dalla Germania il presidente dell'Associazione del Commercio Estero è all'ingrosso tedesco, dice: attenzione, Donald Trump tratta gli Stati Uniti d'America come se fosse un'azienda personale e ai suoi attacchi all'Europa e alla Germania bisogna dare risposte dure, facendogli capire che perderà molto di più di noi se noi perdiamo. Restando in Germania, cala a sorpresa la produzione industriale a dicembre, -3%, le attese erano di un +0,3%, è il maggiore dal 2009, tutti si attendevano una leggera crescita, invece un -3%, non abbiamo altri dettagli sul dato. Angela Merkel è tornata poi, al di là delle sanzioni della Russia, al dire: non ci devono essere club esclusivi in cui altri stati membri non possono entrare, l'Europa ha già più velocità, e il riferimento, ripeto di nuovo, era da un lato a chi è nell'euro e chi no, e dall'altro a chi ha Schengen e chi no, non c'entrava la moneta unica. E poi dice: attenzione, siamo cauti sulla modifica dei trattati, serve una meta comune. E ripeto, torneremo a parlare di questo quando affronteremo il caso greco. Per quello che riguarda lo spread italiano, è leggermente sotto i 200 punti, quindi rallenta rispetto alla corsa degli ultimi giorni, a 195 punti base, la Francia a 70, quindi il nostro BTP a 10 anni rende il 2,30%, la Francia a 74 punti base, con il BTP francese a 10 anni che rende l'1,08%. E poi c'è la dichiarazione del ministro Padoan, che ha utilizzato un'espressione poco economica per definire lo spread in questi giorni. Ha detto Padoan: le vicende di questi ultimi giorni, di queste ore, ci ricordano in modo sgarbato come un paese ad alto debito non possa non occuparsi della sua discesa del debito pubblico. Per il governo la riduzione del debito resta un obiettivo centrale. E poi l'Istat, che nella nota sull'andamento dell'economia di gennaio osserva che l'indice del clima di fiducia dei consumatori ha segnato una diminuzione legata al peggioramento del clima economico, solo in parte attenuato dal miglioramento del clima personale corrente. Cioè, quando uno risponde alla domanda come valuta la situazione complessiva, c'è un calo della fiducia, come invece quando a uno viene chiesto come valuta la sua situazione, c'è un miglioramento del clima personale e c'è un miglioramento anche nella fiducia delle imprese. L'Istat stima che comunque l'attività economica possa migliorare nei prossimi mesi, perlomeno proseguendo l'attuale ritmo di crescita. E su questo si concentrano i 100 secondi di Radio 24 sulle 24 ore. Oggi a firma del vice direttore Alberto Rioli, ricordo che sono trasmessi anche su RDS. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alberto Rioli. La nota mensile diffusa oggi dall'Istat tenta di spargere un po' di ottimismo. Migliora la fiducia delle imprese, il manifatturiero avrà una buona progressione, gli investimenti sono in crescita e soprattutto ci saranno sorprese positive per il dato definitivo del PIL 2016, probabilmente più alto dello 0,1% rispetto allo 0,8% stimato fino adesso. Cambierà quindi anche il rapporto tra deficit e PIL, che è il parametro chiave per le pagelle di Bruxelles, e ciò significa che probabilmente l'Italia avrà una buono di almeno 500 milioni rispetto alla correzione di 3,4 miliardi che l'Europa ha chiesto al nostro paese. Un dato buono, quindi. E buono è anche lo sforzo che le imprese stanno facendo per ampliare l'orizzonte dell'esportazione, con una buona tendenza per l'export verso i paesi extra UE. C'è qualche segnale di ripresa, anche se stiamo parlando di un modesto 0,3%, dei consumi delle famiglie, che tuttavia hanno ancora il record europeo di propensione al risparmio con il 9,3%, anche se in leggerissima diminuzione. Peccato che rovinare la festa ci si metta di nuovo lo spread, che cresce non per colpa dell'Italia ma per l'instabilità francese, che contagia tutta l'Europa, che i mercati vedono come un luogo dove aumenta il rischio per chi investe. L'instabilità politica è il nuovo incubo che proietta la narrazione dei mercati e su cui si orientano acquisti e vendite soprattutto di titoli di Stato. L'Italia, come è evidente dal dibattito sulla scadenza elettorale, non ne è immune e sarebbe cosa buona e giusta trovare una sintesi su data e tipo di legge elettorale con cui votare. Di sicuro i mercati apprezzerebbero e lo spread ne avrebbe giovamento. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Sì, giustamente mi fa notare un ascoltatore, adesso siamo tornati allo spread, la Grexit, la Grecia, sì, ogni tanto la storia si ripropone, ma è la dimostrazione che il modo per risolvere il problema greco è stato, voglio essere buono, mal posto, o meglio abbiamo detto in tempi non sospetti. Guardate che se tu chiedi un percorso irrealizzabile, il problema greco te lo ritrovi fra qualche anno, e sta puntualmente ricapitando, ma lì non si è riusciti a convincere la Germania nell'applicare le regole più dure sulla ristrutturazione del debito greco. Comunque, adesso vi arriveremo tra poco. In realtà volevo dare ancora una notizia sull'Italia, sul sistema bancario, perché è interessante quello che dice Alessandro Penati, che è presidente di Questio e quindi, diciamo, del fondo che ha rilevato, tra le altre cose, le due popolari venete. Perché lo dico? Perché ha detto la cosa che bisogna dire, che lui gestisce il Fondo Atlante, cioè questo è il primo azionista del Fondo Atlante, è che il Fondo Atlante è nato e si è comprato le venete in IPO con numeri che erano da libro dei sogni, ridicoli. Qui c'è una responsabilità mica da ridere, in parecchie situazioni scava e diventa una horror story. Uno si meraviglia, ma non solo per Veneto Banca e Popolare di Vicenza, ma anche per banche come Banca Marche e Monte dei Paschi, e si meraviglia come sia stato possibile gestirle in quel modo. Autorità di vigilanza? Ha continuato Penati, abbiamo due banche che erano praticamente fallite e ancora adesso siamo in situazioni disastrose. Adesso presentiamo un piano con cui facciamo le ristrutturazioni e le portiamo in 3 anni ad avere dei ratio che saranno i migliori d'Italia, e poi faremo una fusione. Questo per quello che riguarda il prossimo percorso. Interessante la parte sulla responsabilità nella gestione di Vicenza e Veneto Banca. E noi invece da Vicenza e Veneto Banca ci spostiamo a Mosca, perché dicevo ieri è iniziata Prodexpo, e cioè la più grande fiera internazionale di prodotti alimentari, bevande e materie prime per il mercato russo dell'Est Europa. Si conclude il 10 febbraio, ripeto, 2000 espositori, 67 paesi, 55.000 operatori del settore che provengono da tutto il mondo, dove noi avevamo un picco di export alimentare verso Mosca di quasi mezzo miliardo, più di mezzo miliardo di euro nel 2013, 560 milioni, ovviamente scesi a 350 nel 2015 e forse arriveranno a 300 nel 2016, quindi quasi dimezzato grazie all'embargo. Ripeto, il tema non è di politica estera, uno può dar ragione all'Ucraina, può dar ragione a Mosca. Il problema è che questo embargo voluto dagli Stati Uniti, che adesso viene molto difeso dalla Germania, colpisce nelle modalità soprattutto le imprese italiane, non certo quelle portoghesi o spagnole, per il tipo di rapporti di export che avevamo noi, e la Germania, come ho fatto notare più volte, continua tranquillamente a fare i suoi accordi con la Russia per quello che riguarda il gasdotto cosiddetto Nord Stream, che quello ha un bel impatto. La Germania non ha tutta questa esposizione nei prodotti alimentari verso la Russia, mercato che, lo ricordo, era un mercato fondamentale per noi, perché era un mercato che comprava la qualità, cioè l'Italian sounding cosiddetto, cioè il cibo che sembra italiano ma non è italiano, era quasi inesistente in Russia. Negli ultimi anni siamo riusciti, non per colpa nostra in questo caso, a creare un mercato di prodotti Italian sounding anche lì, perché si sono rivolti altre società, magari dell'agroalimentare, magari in Turchia, magari in altri paesi, che vendono delle cose che assomigliano ai nostri prodotti. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Allora, veniamo a Mosca, dove c'è in collegamento con noi, con meno 20, una temperatura siderale, ma spero che non sia all'aperto, il presidente di Federalimentare, Luigi Scordamaglia, Federalimentare della Federazione Italiana dell'Industria Alimentare. Buonasera, Scordamaglia. Buonasera, sì, tranquilli, non sono all'aperto, fortunatamente. No, perché meno 20 inizia a essere dura. Allora, che cosa ha trovato al Prodexpo? Intanto, che tipo di concorrenza ci stanno facendo altri paesi che non hanno l'embargo? Che attenzione c'è per i prodotti italiani, o si stanno disinnamorando? Perché sappiamo che uno dei rischi è che se tu inizi a farti fornire le mozzarelle da un produttore turco, e poi mica è detto che torni indietro sull'originale, eh? Certo, ma allora c'è soprattutto un'area di entusiasmo, un'area di ripresa, perché le sanzioni hanno colpito non solo i prodotti italiani, ma hanno colpito la capacità di acquisto del consumatore russo. Oggi questa capacità di acquisto sta tornando, e fortunatamente devo dire non sono molto attratti dalla sostituzione dei prodotti italiani con l'Italian Sounding. Continuano ad aspettare la revoca delle sanzioni, e per quei prodotti che possono arrivare c'è finalmente nella seconda parte del 2016 un segno positivo di esportazione dall'Italia verso la Russia. Quindi l'attenzione verso il prodotto di qualità italiano è rimasto, anche se i principali concorrenti non sono tanto più gli altri paesi quanto la produzione interna russa. Vi do un numero: per la prima volta l'esportazione agroalimentare russo verso il resto del mondo, che è sempre stato inesistente, ha superato l'esportazione dell'industria bellica, ha raggiunto i 16 miliardi. Quindi i russi producono più in proprio, producono soprattutto commodity, e guardano invece con attenzione e con fiducia alla ripresa delle esportazioni. Mi scusi l'ignoranza, ma che cosa esporta la Russia nel settore agroalimentare? Ma esporta soprattutto grano, adesso sta esportando anche carne di pollame, esporta commodity, esporta materia prima e non certo valore aggiunto. Il valore aggiunto lo continua a importare dal nostro paese per quello che può e, ripeto, guarda con grandissima attenzione la scadenza di luglio per sperando che questo divieto ormai decada. Sì, hanno ragione alcuni ascoltatori che mi scrivono dalla Brianza, perché l'embargo riguarda anche tutto il settore del legno arredo dei mobili italiani. Mi sta scrivendo un ascoltatore che ha 40 anni, 13 dipendenti, il 70% andava verso la Russia, adesso il fatturato è calato del 60% grazie agli embarghi. Ecco. E dice che si stanno decimando le aziende in Brianza. Ha ragione, perché se noi parliamo del settore agroalimentare, ma insomma, il problema di fondo è che questo embargo, io non ripeto, non è una posizione di politica estera, però colpisce il made in Italy più classico, quello che era più venduto anche in Russia, legno arredo, agroalimentare, no? Allora è difficile che la Spagna possa essere, col massimo rispetto, o la Francia possa essere colpita nel legno arredo tanto quanto noi. Scordamaglia? Assolutamente sì, il crollo del legno arredo, nonostante non sia vietata ovviamente l'esportazione, è legato proprio agli effetti collaterali di queste sanzioni che hanno impoverito il consumatore russo. Diciamo che c'è grandissima aspettativa, come dicevo, soprattutto verso l'Italia. Si respira qui un'aria diversa e si aspettano che il governo italiano annunci formalmente che questo G7 si trasformerà in un G8. Se così fosse, saremmo tornati ad essere protagonisti e avremmo dato un segnale fondamentale e vitale per i nostri imprenditori, ma anche per i rapporti con la Russia. Sì, mi segnalano altri ascoltatori che addirittura l'Italian Sounding ce lo fanno dentro l'Unione Europea. Scorda maglia, cantuccini prodotti in Polonia. Ma noi sapevamo che l'Italian Sounding era un problema che vale il doppio di quanto esportiamo. Noi esportiamo circa 30 miliardi e in giro per il mondo ce ne sono 60 di Italian Sounding. Avevo capito che fosse un problema soprattutto in Canada, in Gran Bretagna, negli Stati Uniti, anche in Gran Bretagna, non dentro l'Unione Europea in quel modo, no? Beh, sui paesi terzi c'è un oggettivo divieto, cioè un'oggettiva difficoltà a riconoscere legalmente la tutela geografica, però devo dire che molti paesi europei evocano costantemente l'italianità, se non con la riproduzione del nome, con le fotografie, con i colori, quindi effettivamente c'è un atteggiamento negativo di questi paesi che anche dell'Unione Europea che ci danneggiano particolarmente. I 60 miliardi che lei dice sono assolutamente sottostimati, erano di qualche anno fa. Se lei pensa che solo gli Stati Uniti di Italian Sounding ne hanno oltre 25 miliardi, quindi i 60 ormai saranno diventati 100 anche di più. Torniamo alla Russia invece, mi stava raccontando, la uso come quasi come un nostro inviato lì, la concorrenza arriva anche dai produttori interni russi. E che altre tendenze ha notato girando per i padiglioni del Prodexpo a Mosca? Altri paesi che diciamo ci possono far paura o ci minacciano? Ma no, io direi che Turchia ed altri paesi che hanno provato a sostituirci nell'effetto di esportazione, in realtà probabilmente la qualità delle produzioni o comunque non sono riusciti a soppiantarci. Quello che dicevo è che la decisione di pochi anni fa, soprattutto dopo le sanzioni di Putin, di aumentare l'autosufficienza agroalimentare interna sta riuscendo perfettamente. Su alcune filiere, dalla carne di pollame alla carne suina, i russi da importatori sono diventati esportatori netti. Ripeto, parliamo soprattutto di commodity, non parliamo di prodotti ad alto valore aggiunto e di qualità per i quali guardano sempre con attenzione l'Italia. Devo dire, nella produzione di commodity agricole, loro, se non possono prendere i prodotti italiani, vogliono la tecnologia e il know-how italiano, cioè nella trasformazione non di prodotti tutelati, loro vogliono costantemente joint venture e collaborazioni con aziende italiane perché le trovano non solo le più efficaci ma anche le più sostenibili. Allora, vedo che alcuni mi scrivono anche calo nel settore della moda, nel segmento medio e medio alto, da tra 50 e 60%. Qui attenzione, c'è il fronte dell'impoverimento del potere d'acquisto dei russi, non è in maniera stretta e diretta la parte delle sanzioni. Senta, ha ricevuto, scusa maglia, la sensazione che comunque loro sperino molto in questo G7 di Taormina? Prima vi accennava. Sicuramente sì, loro guardano, continuano a guardare all'Italia come un po' la punta di diamante dei rapporti europei, forse non nascondono una certa delusione sul fatto che non siamo ancora riusciti a concretizzare niente, ma sulla trasformazione del G7 a G8 c'è davvero un'attenzione particolarmente spinta, quindi io credo che deluderli adesso sarebbe estremamente dannoso per il nostro paese. Senta, per inciso, cos'è questa iniziativa che avete lanciato apertamente in giro, invece in questo caso torniamo in Italia, non stiamo più in Russia, in giro per l'Italia sulle filiere dell'agroalimentare? Questo è la voglia di comunicare in realtà non solo in Italia, apertamente in particolare in Italia, domani annunceremo Cibus Connect che è rivolto soprattutto agli altri paesi, è la voglia di comunicare non solo la qualità dei prodotti ma anche i valori e la trasparenza dell'industria alimentare italiana, per cui tutti i principali marchi industriali italiani, grandi, piccoli, di tutte le regioni d'Italia, si aprono a visite spontanee da parte di giornalisti, consumatori, studenti per mostrare come si fa in tutta trasparenza a fare un prodotto come quello italiano e quali valori ci sono dietro. Allora, vedo che altri mi scrivono: guardate che il potere d'acquisto si è eroso anche per il prezzo del petrolio. Sì, tutte e due le cose, nel senso che l'embargo, le controsanzioni hanno reso più difficile acquistare alcuni prodotti ed eroso potere d'acquisto, sicuramente in parte si è eroso per il prezzo del petrolio, che però ormai è tornato a $53-54 al barile, è ancora più basso rispetto agli 80-90, ma onestamente non è ai livelli così bassi, quindi c'è un combinato disposto di varie cose. Non solo il prezzo del petrolio, certo che, ripeto, le sanzioni hanno avuto sono state frutto di una scelta politica, però quello che non va bene è che queste sanzioni vanno a colpire alcuni paesi più di altri, senza che vi sia anche in questo caso, chiamiamolo così per farci capire, un conguaglio tra paese e paese. In bocca al lupo all'intero settore agroalimentare italiano, che vuol dire 385.000 addetti, 135 miliardi di fatturato, e quindi anche al presidente Luigi Scordamaglia. Grazie, grazie a tutti. Allora, vedo tanti messaggi sul tema della Merkel, e anche sui casi internazionali, tutto quello che volete. Ripeto, il tema non è solo dell'embargo, è di chi ne subisce le conseguenze. Andiamo adesso però sul metro, la pubblicità, poi andiamo a commentare la borsa che ha chiuso con un meno 0,17%, bene il risparmio gestito anche per i dati sulla raccolta, ma non solo, e invece di nuovo deboli i bancari in assenza di grandi notizie, con un euro che è a 1,0690, quindi stabile sul dollaro. 349-238-6666 per sms e whatsapp. State ascoltando un programma offerto da Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Focus Economia. Sette e 42 minuti, andiamo adesso sulla borsa e poi parliamo anche del business degli stadi, o meglio del perché una società di calcio debba essere proprietaria del suo stadio. Al di là delle polemiche, devo dire che citeremo anche le dichiarazioni di oggi dell'assessore urbanistica del Comune di Roma, Paolo Berdini, in cui ha detto: io voglio fare lo stadio, ma Parnasi vuole fare assieme allo stadio anche qualcosa come 600.000 metri cubi regalati. Lui non vuole fare lo stadio, cioè accusandolo di puntare sul business di ciò che ruota attorno allo stadio, non allo stadio vero e proprio. Però andiamo con ordine. Innanzitutto la borsa, poco mossa, di nuovo negativi, deboli le banche. Banco BPM meno 6%, Biper meno 3,5%, Intesa San Paolo meno 1,90, UBI meno 1,60, Generali meno 0,55%. E lo facciamo con Flavia Carletti di Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Banche, poi andiamo invece sul risparmio gestito, anzi lo cito subito, che invece ha fatto più 3,31 su Azimut, più 1,70 su Mediolanum e più 1,60 su Fineco Bank. Sì, appunto, oggi il movimento è stato diverso per i finanziari. Appunto, Risparmio Gestito ha visto i titoli salire e essere come Azimut il migliore del segmento principale, mentre invece le banche continuano a essere penalizzate. Oggi diciamo che lo spread si è mantenuto sotto i 200 punti base, stava intorno ai 197, quindi diciamo non sono emersa novità, almeno da quel punto di vista. C'è un clima però comunque di debolezza sulle banche e ne ha pagato soprattutto il Banco BPM, che ha perso meno 5,98%, però almeno al momento non sono emerse novità rispetto a quelle degli ultimi giorni, quindi non c'è stata una notizia in particolare, almeno da quanto abbiamo saputo, che ha smosso il titolo, però comunque c'è un clima un po' di cautela soprattutto sui titoli finanziari. Però appunto oggi hanno fatto eccezione quelli del Risparmio Gestito per alcune notizie in particolare. Azimut appunto ha fatto più 3,31% perché ha annunciato l'avvio di un programma di acquisto di azioni proprie con una prima tranche da 25 milioni e si parla della possibilità di fare un'operazione fino al 13% di capitale, e Azimut ha già il 7% di azioni proprie. Era una cosa attesa dal mercato perché il gruppo ha circa 300 milioni di liquidità e quindi il mercato si aspettava in qualche modo l'annuncio di qualche operazione per reinvestirli, e quindi è stato particolarmente apprezzato il fatto che si parta con un buyback. Veniamo a altri titoli invece, sempre sul fronte. Oggi la giornata è molto mista, nel senso che Telecom perde il 2,40, Medest l'1,30%, però tracchinato bene anche Moncler più 1,90, Recordati più 1,80, Casey New Holland CNH più 1,52% ed Exora anche guadagna l'1,24%. Fiat perde il 2,91%. Sì, appunto, oggi c'è stato un andamento differente da questi titoli che ruotano tutti intorno, diciamo, nella galassia Agnelli. CNH ha guadagnato l'1,52%, secondo un po' quello che abbiamo raccolto, perché ci sono rumor comunque smentiti dalla società, però il mercato ovviamente ci scommette, che possa essere ceduta l'attività delle macchine per costruzioni, e tutti i commenti sono favorevoli, prima di tutto perché comunque la vendita è vista come un fattore positivo, e in più perché dice questa cosa potrebbe proprio avere un impatto positivo sui conti e addirittura potrebbe permettere al titolo di avere un rialzo del 5-6%, e poi potrebbe esserci anche un re-rating di tutto il restante business, perché permetterebbe a CNH di concentrarsi su quelle che sono le sue attività principali, perché questo settore rispetto ad esempio a Caterpillar, che è uno dei più grossi, vale molto poco, quindi in qualche modo ha avuto perdite per 4 anni negli ultimi 8 anni, è abbastanza piccolo nel resto del business e non è legato agli altri, quindi venderlo per molti sarebbe positivo. Mentre invece FCA ha pagato, diciamo, notizie riguardanti quello che è il Dieselgate. Il mercato è in attesa di una definizione della disputa con la Germania, e contemporaneamente invece sono uscite notizie dalla Francia, perché l'autorità francese che si occupa di queste cose ha trasmesso al pubblico ministero la documentazione per aprire ulteriori indagini riguardo a presunte violazioni delle norme a tutela dei consumatori nella vendita di veicoli diesel, e quindi si apre potenzialmente un nuovo fronte per il gruppo. Allora, migliori e peggiori oggi: SMRE più 27, Ceramiche Ricchetti più 8,40, Novare più 6,80, Sintesi più 4,5. Fronte opposto: Ross meno 12, Sogefi meno 6,20, TAS meno 6%, Landi Renzo meno 5%. Grazie intanto a Flavia Carletti. Dopo il traffico parliamo di stadi, ripeto, non solo di quello della Roma, ma perché c'è questa tendenza a dire il club deve gestire lo stadio, con un approccio esclusivamente economico. Non mi interessa il calcio, non mi interessa la classifica, non mi interessa la Roma come squadra di calcio, e per capire se veramente il gioco valga la candela. Fermo restando, lo dico subito prima che i sostenitori, diciamo, della giunta Raggi mi scrivano, ha ragione l'assessore Berdini se il suo timore è che il business non sia lo stadio ma i miliardi di metri cubi che vi possono ruotare attorno. Ha ragione, perché sappiamo che in questo paese bisogna stare attenti, che delle volte l'opera diventa il cavallo di Troia per agganciarci dell'altro. Però se un comune, così come un'amministrazione, un governo, ha tutti gli strumenti per valutare e controllare, oltre che approvare, che vengano osservate le leggi, le regole e i piani firmati. Dopo il traffico. Focus Economia. E poi ce l'ho io l'argomento. Eccoci qua. Vediamo. Ce l'ho io l'argomento oggi. Eccoci. a Roma va fatto lo stadio. Famo sto stadio. E non solo a Roma. Lo stadio, gli stadi vanno fatti per tutte le squadre in tutta Italia. È l'argomento d'oggi. È l'argomento di oggi. Va bene. Oh, tutto è un po' nato, rinato da qui, dalla dichiarazione di Spalletti domenica scorsa durante un collegamento di Sky, è apparso alle spalle dell'inviato e ha detto quello che avete sentito. Da lì è partito l'hashtag, tutte cose molto interessanti, tutto molto interessante, ma a me interessa capire se il gioco vale la candela e perché. Da un lato ho qua con me Fabio Pavesi, il Sole 24 Ore, che ha scritto di Parnasi soprattutto, cioè di chi dovrebbe fare questo stadio. Io non ho capito cosa c'entrino gli altri metri cubi, ma adesso ci arriviamo. Ma dall'altro anche il mitico Pierluigi Pardo, una delle voci assieme a Carlo Genta e a Capuano di tutti i convocati. Pierluigi, buonasera. Grazie della presentazione esagerata. No, vedi, a differenza tua, che non mi inviti neanche quando Verona è in A, io ti invito anche quando Verona è in B, ma questo, okay. Cioè, la classe non è acqua. Noblesse oblige. Andiamo avanti e non rendiamo pubblici gli stracci. Perché la tendenza, diciamo, dal modello inglese in poi, è quella per i club di avere lo stadio di proprietà? Perché uno potrebbe dire, ha un costo per il club, hai già uno stadio, rimetti a posto quello che c'è e fallo gestire all'amministrazione comunale e a chi ce l'ha in gestione di proprietà. Prego. Ma io credo che l'anomalia sia italiana, nel senso che noi siamo, dal punto di vista tecnico, chiaramente un grande paese di calcio, dal punto di vista infrastrutturale non lo siamo. Siamo un paese nel quale i diritti televisivi, sui quali tra l'altro si sta per pronunciare una partita importante, pesante, perché bisognerà capire ovviamente quanti soggetti saranno pronti per fare le offerte, quindi c'è il rischio che non si possano raggiungere gli stessi risultati del contratto di 3 anni fa. Bene, i diritti televisivi incidono moltissimo rispetto agli altri paesi, in maniera abbastanza patologica, superiore al 50% sul fatturato delle società, e quindi da qui la necessità di diversificare le fonti di introiti per le società. Il modello virtuoso in Italia è quello della Juve, c'è questa analogia che potrà anche essere casuale, ovviamente, mm-hmm. Poi il pallone è rotondo, come si dice, quindi, però sta di fatto che da quando la Juve ha lo Juventus Stadium ha ricominciato a vincere, ma quello che invece interessa un po' di più a Focus Economia, ha cresciuto negli ultimi anni, ha cresciuto i propri fatturati in maniera veramente clamorosa, fino ad arrivare nel 2016 a 400 milioni di fatturato. Ma perché uno stadio, adesso la biglietteria e il ticketing è chiaro, ma perché uno stadio di proprietà ti fa guadagnare di più che non, diciamo, essere uno stadio comunale? Perché lo puoi utilizzare 365 giorni all'anno. Poi è chiaro che molto dipende anche dalla forza della squadra, nel senso che insomma, il museo del Barcellona fattura in un certo modo, il museo di un piccolo club fattura decisamente meno. Però è chiaro che lo stadio lo puoi utilizzare, lo puoi affittare. Uno degli stadi più belli che sono stati costruiti in questi anni in Europa, che è l'Emirates Stadium dell'Arsenal, è stato spesso affittato alla nazionale brasiliana. Insomma, diventa uno strumento, o per organizzare concerti, diventa uno strumento, diventa un asset che da un lato accresce la patrimonializzazione di un club di calcio, che spesso è un concetto abbastanza aleatorio, legato a un crociato che si rompe oppure no, o a un giocatore che esplode oppure che non esplode. Insomma, gli dà una struttura e una forza, perché chiaramente significa patrimonializzare i metri cubi e un valore di un certo tipo. Dall'altro, ovviamente, accresce la possibilità di non fare soltanto 20-30 giorni l'anno nei quali hai un introito, ma farlo diventare 250-300 giorni all'anno. Allora, mi scrive un ascoltatore: Pardo a Focus Economia, ma non era meglio la satta? Sono d'accordo con lei, noi abbiamo beccato Pardo. Però, in radio ce la giochiamo, dai, in radio la satta. Che per favore. Allora, dai, però, tornando a essere seri, invece, Pierluigi, da questo punto di vista, tu dici attenzione, che non basta fare lo stadio, occorre anche la forza del club e quant'altro, e quindi le attività che tu sviluppi attorno, diciamo, a questo stadio, dall'affitto al museo quant'altro. Perché tutto da quello che tu hai capito si è rimesso in moto? Non è che siano solo le dichiarazioni di Spalletti. Perché la Roma è seconda in campionato e si sente la vera alternativa alla Juventus? Perché è palese, voglio dire, a Milano non c'è tutta questa polemica, e sì che due team forti li ha anche, o abbastanza forti, insomma, li ha anche Milano. Perché a Roma in questo momento? Perché a Roma sono arrivati gli americani con il progetto molto preciso di fare lo stadio, praticamente era il giorno zero, lo sappiamo. C'è stato un momento e c'è una parte del tifo giallorosso che è anche abbastanza polemico, nel senso che pensa che ci sia un eccesso di attenzione nei confronti dello stadio rispetto ad altri aspetti della gestione sportiva del club. Quindi questo è un primo elemento. Però insomma, che sia uno strumento quasi irrinunciabile, mi sembra evidente. Io credo che il governo della capitale, oltretutto insomma una giunta che si è candidata, che ha avuto una standing proposition, direbbero gli inglesi, no? Cioè ha ottenuto un consenso così vasto basandosi proprio sull'onestà, no? sulla promessa di onestà e di trasparenza e il mancato spreco di soldi pubblici, e insomma potrebbe essere un garante perfetto da un certo punto di vista per far sì che questo tipo di investimento venga fatto realmente senza buttare via i soldi dei cittadini, che è importantissimo. Ecco, e questo è il punto che tratteremo con Paresi, perché qui, allora io dico, se tu fai sindaco come se fai presidente del consiglio, non puoi dire non faccio l'opera perché rubano, no, perché vuol dire che sei un incapace. Altra cosa è contestare un progetto perché dici non c'entra con l'obiettivo che avremo, e di questo è quindi Parnasi. Di questo parliamo con Fabio Pavesi dopo. Mi dicono che anche il Cagliari e l'Udinese hanno stato di proprietà, è giusto? Sì, beh, il Sassuolo, sappiamo Sassuolo. Qualcosa, insomma, il Sassuolo ha una... No, va bene, chiedo perché sempre quando tocchi il calcio bisogna stare attenti, e quindi volevo solo correggermi. Intanto grazie a Pierluigi Pardo, resta con noi Fabio Pavesi, GR24, e poi cerchiamo di capire invece nello specifico, al di là del modello di business, che cosa... Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Benvenuto nella tua auto. Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto. Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Dibidi dobidi DAB. Anche Radio 24 è in Digital Radio. State ascoltando un programma offerto da Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Focus Economia. E 8 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, chiarita con Pierluigi Pardo la ragione per cui i club più importanti, è stato molto chiaro Pardo su questo, devi avere anche una struttura di club, per quanto mi stiano scrivendo anche giustamente da Reggio Emilia con il Mapei Stadio, e mi scrive un ascoltatore che è il direttore del centro commerciale I Petali, nato 10 anni fa proprio attorno allo stadio. Dicendo che insomma l'elemento virtuoso dello stadio ha permesso di qualificare anche l'area. Ma al di là di questo, veniamo al caso di Roma, perché se ho ben capito Fabio Pavesi, qui c'è un costruttore che si chiama Parnasi, sì, che ha detto io vi costruisco lo stadio a mie spese, in questo senso ha ragione chi dice ma attenzione i soldi sono privati, quindi qual è il problema delle eventuali ruberie? Beh, insomma, intanto le ruberie non ci devono essere neanche nel privato, però non è denaro pubblico. Parnasi però ha chiesto in cambio, se ho ben capito, della costruzione dello stadio, che poi lui darà alla Roma come affitto, anche qui se ho ben capito, di poter costruire delle torri, e ha detto l'assessore urbanistica Paolo Berdini: io sono a favore dello stadio della Roma, non capisco perché ci devono essere altri 600.000 metri cubi attorno allo stadio. Mi scrivono altri ascoltatori, io leggo tra l'altro, lui ha chiesto questo scambio, costruisce lo stadio se può costruire le torri, tra l'altro in una zona degradata, quindi l'impatto sarebbe zero per il pubblico. Fabio Pavesi. Ma cercando di ricostruirla, Pardo ha ragione, chi ha lo stadio in genere guadagna, nel senso che lo stadio è una fonte di ricavi. Ecco, la Juventus ha un bilancio buono, la Roma non ha un gran bilancio, perché se guardiamo i protagonisti sono Pallotta, che ovviamente è proprietario della Roma, e Parnasi, sono in due coinvolti nella partita. Veniamo alla Roma. La Roma ha 220 milioni di ricavi, però ha chiuso in perdita per 14, ha debiti finanziari per 150 milioni e ha patrimonio netto negativo. Non è una società in buona salute, quindi i soldi difficilmente Pallotta potrà mettere soldi alla Roma. Infatti Pallotta sta cercando credito, nel senso che è andato a bussare alla porta di Goldman Sachs per avere un primo prestito da 30 milioni. Parnasi ha messo per il momento solo 60 milioni. Parnasi è proprietario dei terreni. Parnasi possiede al 100% il terreno di Tor di Valle. Allora lì si sono divisi la partita, cioè a Pallotta interessa lo stadio. Parnasi è subentrato dicendo: va bene, a me interessa costruire una sorta di centro direzionale, si chiama Business Center. Quel 1,6 miliardi di investimento complessivo è diviso così: 400 milioni servono per fare lo stadio, 700 milioni servono a fare queste torri, che rimarrebbero ovviamente a Parnasi, e circa 440 milioni sono le opere pubbliche, cioè le urbanizzazioni. Quindi da un lato questa è una sfida importante, perché in una città come Roma degradata fare un investimento a 1,6 miliardi è un investimento, come dire, virtuoso per la città. In un'area che mi sembra... In un'area degradata a sud di Roma, fuori mano, Torval. Il problema però è chi paga questa cosa qui, cioè i veri problemi. Allora l'assessore urbanistica di Roma dice: io ho un problema di cubature, cioè... lo stadio mi va bene, ma queste torri che mi portano via 600.000 metri cubi mi chiedo se siano pertinenti. I rilievi fatti però non sono sulle cubature, oggi è stato l'incontro. I rilievi che il comune ha fatto sono di sicurezza e oneri di urbanizzazione, cioè il comune l'ha bocciato sul piano della viabilità, dice che occorrono delle opere che garantiscono una corretta viabilità. Entro un mese si avrà una decisione. Oggi l'incontro pare sia stato soddisfacente per entrambe le parti, quindi può essere che il progetto parta. Il tema vero è chi mette i soldi e soprattutto se quei soldi verranno recuperati. Perché... Ma scusami, però io ti potrei dire in maniera cinica: se fossi un cittadino romano, se non li metto io i soldi, cioè se non li mette il mio comune, sono fatti di Parnasi, nel senso, pur rispettando gli oneri di urbanizzazione e quindi tutti gli oneri accessori, diciamo, una costruzione, e se lui fa due torri, fa lo stadio, avrà fatto i suoi calcoli per capire se ci può guadagnare o no. Il problema è se poi quella roba rimarrà una cosa virtuosa o una cattedrale nel deserto, perché ovviamente tu puoi costruire le torri, ma se poi non trovi chi ci va dentro, quindi grandi società a cui affittare queste torri, si parlava di Unicredito, ma Unicredito ha già una sede a Milano, quindi non si capisce perché dovrebbe affittare una sede a Roma, visto che sono quartier generale a Milano. Scusa l'ingenuità, ma uno come Parnasi non si è fatto due calcoli prima di fare questa proposta? Io non lo so, io so solo questo: mi ha ricostruito la storia di Parnasi, che è un grande immobiliarista romano. E beh, insomma, la sua società si chiamava Parsitalia ed è finita tutta in mano a Unicredito, con 400 milioni di debiti non restituiti. Cioè Parnasi è andato in difficoltà, la sua famiglia, la sua impresa, è diventato un grande incaglio per Unicredito, 450 milioni solo su Unicredito, che si è rilevato tutte le sue attività, debiti compresi, e deve adesso tentare di vendere le attività di Parnasi per rientrare del suo credito. È uno dei grandi sofferenti delle banche italiane. Allora, Parnasi finora ha dimostrato di non sapercela fare. Lo stadio non c'entra niente con la vecchia Parsitalia di Parnasi, è un'attività nuova. Però se tanto mi dà tanto, l'esperienza pregressa di Parnasi non è illuminante, nel senso che Parnasi a sua volta non ha i capitali per costruire, dovrà chiedere credito alle banche. Ma io mi chiedo, uno che è già andato in sofferenza con la seconda banca italiana, da chi può avere credito? Questo è il tema. Cioè il tema è: questa grande opera trova due persone, Pallotta da una parte e Parnasi dall'altra, che non hanno capitali propri, perché la stessa S Roma, vi ho fatto vedere gli indici di bilancio, non è in buona salute. Lo stesso Pallotta sta cercando di far entrare la sua Starwood Capital, che è l'accompagnato nell'acquisto della Roma, e tutti stanno cercando finanziamenti all'estero, quindi banche straniere che finanzino il progetto. Quindi c'è tutta una serie di incognite. Il vero tema è chi mette i soldi, e soprattutto questi soldi poi torneranno alle banche finanziatrici. Questi sono i temi su cui stiamo dibattendo. C'è un altro aspetto che mi fanno notare gli ascoltatori: ma se lo stadio poi non è effettivamente della Roma ma di Parnasi, che cosa cambia per la Roma rispetto lo stadio diventerebbe di Pallotta, cioè la Roma, perché in questa suddivisione dei costi 700 milioni vanno a questo business center che sarebbe di Parnasi, e 400 milioni sono lo stadio che rimarrebbe di proprietà della Roma. Però ripeto, noi siamo giovani finanziari, siamo chiesti, appunto, il progetto è faraonico, può essere anche un'opportunità per Roma, al di là delle questioni sulle cubature, c'è un tema di, appunto, chi finanzia cosa. visto che ambedue sono soggetti che non hanno grandi capacità di autofinanziamento, è vero, c'è un sistema bancario che può provvedere, però noi sappiamo tutti che il sistema bancario su certe grandi iniziative, penso ai grandi immobiliaristi italiani, no? Pensiamo, cioè, quindi se ho ben capito, i rischi qui sono due. I rischi sono due. Se per caso questo poi si blocca, ti resta sul groppone. Resta sul groppone alle banche soprattutto. Alle banche, però insomma uno potrebbe dire, vabbè, se la gestiranno le banche, finiranno i lavori le banche e quant'altro. L'altra cosa invece sono i lavori di, per collegare lo stadio alla città, i lavori di urbanizzazione. Quelli li pagano i due privati, cioè quello è giusto, in qualsiasi grande opera gli oneri di urbanizzazione sono un regalo, tra virgolette, che il privato fa al comune, cioè tu mi permetti di costruire e ci mancherebbe, io ovviamente ti faccio le opere di urbanizzazione completamente gratuite e te le cedo. Infatti in questa split dei conti, 700 milioni di lettori, 440 sono le opere pubbliche, ovviamente finanziate dai privati. No, ripeto, il progetto sul piano teorico ha una sua, come dire, validità. Uh-huh. Il tema che ci poniamo noi da osservatori finanziari è che il progetto è faraonico, ma i soldi non si vedono per il momento, si vedranno quando il progetto verrà approvato. Però i due personaggi sono ambedue a caccia di finanziatori, con l'aria che tira, io non so se i finanziatori saranno così ben disposti a mettere un miliardo. A meno che le 6. Banche non dicano, vabbè, visto che c'è immobile e stadio... Puoi mettere una garanzia, però noi sappiamo bene che se poi l'immobile rimane vuoto, quella garanzia che è messa a bilancio 100 può valere zero. Uno potrebbe dire cinicamente, oh, è un problema delle banche. Ma fuori dire il problema delle banche, poi le banche scaricano poi su di te, perché poi quando hanno le sofferenze aumentano i costi dei conti correnti a tutti per recuperare parte delle perdite. Cioè... E qui il tema è, come sempre, capitalisti con pochi capitali, perché ripeto, la Roma vuole lo stadio, ma non è le condizioni di bilancio della Juventus. La Juventus quando ha fatto lo stadio aveva un buon bilancio. Qui si parte con un bilancio che ha 150 milioni di debiti con le banche a oggi e che ha patrimonio netto negativo. Poi c'è Parnasi che per conto suo finora ha lasciato 450 milioni di debiti in capo a Unicredito, che dovrà vendere le sue attività per rientrare da quel credito. Cioè, fai prima a farlo costruire alle banche? Ma direi di sì, però non è il mestiere delle banche. Insomma, però abbiamo visto fare alle banche molte cose in questo paese negli ultimi decenni. Qualcuno mi scrive perché non chiedono i soldi a Monte dei Paschi. Beh, lasciamo stare, aspettiamo il piano e vediamo che succede al titolo su Monte dei Paschi. Grazie anche a Fabio Pavesi. Poi dopo il traffico invece ci spostiamo in Grecia, dove c'è un problema di soldi anche lì, ma soprattutto ciclicamente ritornano, ossia il fondo monetario, non all'unanimità, ma insomma parte del board del fondo monetario dice attenzione qua, o rinegoziamo il debito con la Grecia o la Grecia non ce la farà mai a ripagare e a rientrare con il piano di rientro che ha concordato. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. L'euro è irrevocabile. The euro is irrevocable. Questo è il trattato. This is the treaty. E la mia risposta alla sua lettera era una risposta a una domanda tecnica basata su ipotesi che non sono contemplate dal trattato. Oh, più chiaro di così Mario Draghi non poteva essere. Sei dentro l'euro, è irrevocabile, questo prevedono i trattati. La Gran Bretagna era nell'Unione Europea, invece i trattati prevedevano, famoso articolo 50, che uno potesse uscire dall'Unione Europea, non è prevista l'uscita dall'euro, poi tutto si può fare nella vita, auguri. Perché ho fatto sentire Draghi? Perché oggi stiamo parlando di nuovo di Grecia. Allora, Vittorio D'Arold, brevemente, qual è la situazione della Grecia tale per cui il Fondo Monetario, adesso che si deve trattare con la Grecia per il nuovo piano di finanziamenti, 86 miliardi in tutto, il Fondo Monetario dice o decidiamo che la Grecia le diamo un altro tipo di rinegoziazione del debito, tanto non ce la faranno mai, ho capito bene? Sì, esattamente, cioè il solito discorso del debito troppo alto, sono al 180% del PIL e quindi il Fondo Monetario dice questo debito è troppo elevato, cioè il costo del debito è eccessivo e il piano per rientrare previsto dell'Eurozona, quindi dai creditori europei, prevede un surplus di bilancio del 3,5 al netto degli interessi. Questo, secondo il Fondo Monetario, è irrealizzabile. Molto più semplice dire fare 1,5. Su questo c'è scontro fra i due, quindi la troica è divisa, e se ci mancasse però l'apporto del fondo, che per il momento è alla finestra, quindi non sta partecipando dando dei soldi, la Germania dice: beh, noi potremmo rivedere di nuovo tutto, perché è importante che ci sia il fondo monetario anche della partita, perché ci dà garanzia che sarà severo e in qualche modo ha le technicality per verificare sul campo che tutte le riforme vengano fatte, perché poi il fondo chiede, come al solito, che ci siano nuovi tagli sulle spese pubbliche, quindi le pensioni vengono ancora tagliate, e che ci sia un aumento della imposizione fiscale, perché il limite, l'esenzione da 5.000 euro venga ridotto a 3.000. Tutto questo è quasi storia passata. Insomma, l'Europa non è riuscita ancora una volta a risolvere il problema. Il vero, discorso l'ha fatto il commissario Moscovici, che ha detto: attenzione, abbiamo una finestra che è quella del mese di febbraio. Dopo, a marzo, cominciano le elezioni in Olanda, poi ci sono quelle francesi, poi c'è quelle tedesche, e in quel momento non riusciremo più a trovare un Eurogruppo dove trovare la quadra tra noi e il Fondo Monetario. Quindi facciamolo subito, perché sennò le cose poi diventano valanghe, come al solito. Una cosa che costa poco, se presa da subito, può diventare invece un pericoloso focolaio per altri. E oggi abbiamo visto, i focolai si sono anche estesi alla Francia e a paesi molto più, consistenti. Quindi non ci sarebbe bisogno di un altro fronte. In realtà, forse sotto c'è qualche falco tedesco che sta facendo sì che questo ritorni. Perché? Perché è inutile negarlo. Lo vuole usare questa come storia, nella campagna elettorale. Esattamente, cioè vogliono in qualche modo essere molto duri, molto severi, per far sì che Alternative für Deutschland, cioè il partito anti-euro e antiscettico, scettico europeo, non abbia motivo per dire che il governo di Angela Merkel e di coalizione con i socialdemocratici sia troppo accondiscendente con un paese che è il paese per eccellenza, nell'immaginario tedesco, dei paesi europei che non rispettano le regole. Ecco perché stiamo tutti ancora tornando a questo vecchio, dramma greco. Il vero problema però è che non abbiamo ancora risolto, e ancora una volta tocca alla BCE di Mario Draghi dire ancora una volta whatever it takes, faremo tutto il possibile, e ricordare. È come se fosse però sempre più isolato in questa situazione europea. Guardate che l'euro è quello che è il collante politico che tiene insieme anche il mercato unico, perché se non ci fosse l'euro avremmo svalutazioni competitive, e il mercato unico, ha detto Draghi, non resterebbe in piedi tra paesi che si fanno la guerra valutaria. E vedremo, e chiaramente tutto questo, come tu facevi notare, si inserisce nella campagna elettorale tedesca. Mentre restiamo sul tema per ascoltare un altro passaggio, e qui mi sposto all'Italia, visto che qualche ragionamento lo voglio dare anche sulla manovra correttiva, non è che ce la siamo dimenticati la richiesta di Bruxelles, sentiamo Padoan sulle altre risorse che sarebbero in arrivo grazie al dialogo con l'Unione Europea per il sisma e non solo. Questi eventi sismici richiedono sforzi in termini di impegno del personale, a cui va il mio profondo ringraziamento, ma va continuata nella ricostruzione di emergenza, nella messa in sicurezza. Da questo punto di vista il Paese si è mosso anche con le istituzioni europee, ha chiesto e ottenuto margini aggiuntivi di risorse disponibili per essere investite nella ricostruzione e nella messa in sicurezza, nell'edilizia sismica, permettetemi di usare questo termine, forse inappropriato. Altre risorse saranno messe in campo in un contesto nel quale il dialogo con la Commissione europea continua, perché il Paese e il Governo rispettano le regole e le usano per ottenere allo stesso tempo consolidamento di finanza pubblica e crescita. In questo contesto molte risorse aggiuntive saranno messe a disposizione. Allora, stasera in audizione il ministro dell'economia Piercarlo Padoan dovrà spiegare ancora meglio dove troverà i soldi, i 3 miliardi e 400 milioni. Dino Pesole, buonasera. Buonasera. Adesso non possiamo anticipare, non arriviamo a tanto, il Padoan di questa sera. Ma resta sempre l'ipotesi di andare a ritoccare le accise sui tabacchi, sui carburanti e un po' di ritocco sul credito d'imposta? Sì, esattamente, sono due ipotesi, due passaggi, due step successivi. Da quello che emerge ci sarebbe l'intenzione di varare un decreto, quindi un decreto legge a fine febbraio già, anticipando una parte di questa minima correzione che potrebbe arrivare proprio dal ritocco delle accise su benzina e tabacchi, ma poi ci sarebbe anche una prima tranche di cosiddetti tagli alla spesa, e c'è qui dentro il capitolo appunto dei crediti d'imposta settoriali sui quali si potrebbe fare un'operazione, come dire, di sfoltimento. E poi ci sarebbe un secondo step ad aprile, in coincidenza con la presentazione del nuovo DEF, il documento di economia e finanza, in cui ci sarebbe il resto, cioè le altre entrate, vale a dire quelle che vengono iscritte sotto la forma della lotta all'evasione. Stiamo parlando del potenziamento di istituti che già sono stati utilizzati e che in qualche modo hanno dato un certo, diciamo, successo dal punto di vista degli incassi. Quindi questo è, il problema è capire di quale entità stiamo parlando. Allora, prima di arrivare a una conclusione di tutto ciò, il governo aspetta che l'Istat comunichi il dato definitivo sulla crescita del 2016. Sembrerà una cosa minima, però in realtà se l'economia italiana lo scorso anno è cresciuta dello 0,9 invece dello 0,8, cambia il deficit un po'. Come per miracolo si riduce di qualche centinaio di milioni anche l'entità della correzione, perché cambia il deficit, e quindi si aspettano questi dati, ma insomma più o meno stiamo parlando di 3 miliardi e qualcosa in più, con le ipotesi che citavamo prima, cioè, esatto, le ipotesi sono queste. Si sta lavorando su un mix, ma saranno più entrate che taglia la spesa. È del tutto evidente che in questa fase dell'anno è un po' complicato, però insomma mi sembra che la strada sia sostanzialmente questa. Allora, grazie anche a Dino Pesole, è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Intanto da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata. Radio 24, libera la voglia di fare.